Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco. Oggi siamo in compagnia di Rossana Campo, ora in libreria con Il posto delle donne, pubblicato da Ponte alle Grazie. Una storia molto particolare, un romanzo a tratti quasi torbido, insomma, è stato anche definito così. Ma andiamo per ordine, insomma, parliamo prima dei protagonisti, anzi delle protagoniste di questo romanzo. Personaggio principale, Emma, che è stata lasciata dalla sua compagna Carmen e si innamora di un'altra donna, di una ballerina. Parliamo innanzitutto di Emma, chi è? Ma Emma è un'italiana che vive a Parigi da molti anni e, appunto, come hai detto, fa la cameriera in un bistrò e appartiene un po' a questa, diciamo, schiera dei miei personaggi che ho descritto spesso anche nei miei precedenti libri. Sono persone così sempre un po' marginali, un po' sbandate, un po' in situazioni di precarietà sempre economica, affettiva, emotiva. E questa volta, così, in questo romanzo mi piaceva raccontare una storia dove ci fossero solo donne, no? Infatti ci sono quasi solo personaggi femminili e i personaggi maschili sono molto laterali, di contorno, così. E come dire, ho voluto toccare un pochino la struttura del noir, però credo che, poi vabbè, ognuno ovviamente fa la sua lettura, credo che l'intreccio un po' noir, nel senso che c'è questa donna, questa ragazza che Emma incontra, che muore, viene ammazzata, Emma cercherà un po' così a modo suo, in un modo scombinato e tutto, di arrivare alla verità. Credo che non sia tanto, appunto, dicevo, il plot proprio, però la cosa importante, almeno a me quello che stava a cuore, era mettere in scena questo mondo di donne che hanno come punto di riferimento altre donne, affettivo, di relazione, di amicizia, di erotismo, di sesso. E quindi ho dato questo taglio tutto. Questo taglio a tutto, insomma, è il romanzo. Un romanzo decisamente tutto al femminile. Come mai hai deciso di andare così un po' sul noir? Abbiamo detto che la trama non è la cosa fondamentale, ma sono più l'emozione e la psicologia dei personaggi. Ma come mai hai voluto dare un tocco di noir? Ma credo non è stata proprio una cosa programmatica, ho detto adesso voglio scrivere un noir. Ho cominciato a ascoltare quello che il personaggio, la protagonista principale, un po' anche gli altri cominciavano a dirmi, no? Io in genere parto molto da dialoghi e da anche monologhi che i personaggi mi fanno, che ovviamente saranno sempre delle zone mie, delle parti di me che escono, però diventano poi dei personaggi letterari, no? Partono da qualche cosa che abiterà dentro di me e poi vanno per il mondo anche un po' così sulle loro gambe. E da quello che usciva erano personaggi che si confrontavano con un lato anche violento della vita, no? Anche di perdita, c'era questa cosa che io sentivo da subito che Emma avrebbe attraversato una perdita, però la sentivo anche vitale, con dei lati molto vitali, quindi anche l'ho vista da subito come una, come dire, un po' il picaro a cui gliene capitano di tutti i colori, e però resta sempre aggrappata alla vita, c'è questa forza di vivere, no? Questa voglia di passare anche attraverso le botte della vita, diciamo, e continuare così a sperare comunque in un incontro, in un amore, in un'amicizia, a credere comunque, no? Nello scambio umano di relazione. Perché sei così affascinata dai personaggi, come tu stessa hai detto, marginali, cioè che hanno dei problemi di marginalità con la vita? Sì, ci sono, come sempre, molti, credo che ci siano molte motivazioni poi che alla fine convergono. Da una parte sicuramente ci sono le mie origini e il fatto che io sono nata per esempio in Liguria, da una famiglia meridionale, abitavamo in un quartiere di meridionali emigrati, quindi comunque anche proletari, insomma, c'era una marginalità sociale che come bambina, poi come ragazzina, in un qualche modo più o meno consapevole avvertivo, no? Poi dall'altro c'è anche come lettrice, come gusti letterari, diciamo, gli scrittori così che ho amato subito e che mi sono sembrati anche proprio un motivo a cui aggrapparmi per continuare a vivere, a stare nel mondo come avevo io idea di starci, erano comunque scrittori che hanno raccontato il disagio, la marginalità, la follia, l'esclusione sociale, chi più ne ha più ne metta. Ma è un tipo di esclusione sociale che nei tuoi romanzi viene superata? Insomma, c'è la possibilità di riscatto o no? Ma non un riscatto nel senso di come si può dire, arrampicamento o cambiamento della situazione sociale, no, perché sono sempre persone precarie che più o meno restano nel loro tipo di vita, però io credo, poi vabbè i lettori lo diranno, credo che ci sia sempre ci sia un percorso che i miei personaggi compiono dentro le loro vite e nei rapporti, no? E la cosa che mi piace così è quello di vedere anche delle zone crude della vita, però pensare che la vita comprende queste cose, quindi nella vita c'è compresa la sofferenza, dei momenti tosti proprio da attraversare, però sono veramente poi quelli che, cioè non possiamo fare a meno di confrontarci con queste parti oscure se vogliamo vedere anche le parti luminose che comunque ci sono dentro di noi e nell'esistenza, a mio modo di vedere. A proposito di parti luminose, nella fascetta di questo romanzo Il posto delle donne, appunto pubblicato da Ponte alle Grazie, viene riprodotta una frase di Emma, la protagonista: vedrai che le cose si mettono meglio prima o poi. Insomma, è un personaggio ottimista alla fine. Ma sì, io credo che appunto il mio pensare all'ottimismo è sempre stato così, anche diciamo proprio a livello esistenziale, quindi non solo come scrittrice, non solo come letteratura. Così ho questa cosa di credere che continuando comunque a lottare per stare al mondo in base a quello che siamo, no? Proprio non stare al mondo in base a degli stereotipi o a degli ideali che secondo me provocano solo casino e sofferenza, ma proprio provare a scoprire chi siamo noi, no? Che cosa ci frulla dentro, soprattutto noi donne, e provare a stare al mondo, fare questa scommessa, insomma, che io credo che per le donne sia un pochino più difficile comunque, no? Stare al mondo, perché viviamo sempre più in società che non ci amano, non ci rispettano, ci massacrano, ci uccidono, ci violentano. Però non voglio vedere solo il lato cupo di questo, e credo che anzi è bello, è importante se noi cominciamo a pensare che abbiamo un potere nella nostra vita di cambiare le cose, che magari non è solo a livello politico, a livello delle istituzioni, ma proprio nella vita di tutti i giorni, no? Cominciare proprio ogni giorno a provare a dare valore noi a noi come donne e alle nostre amiche, alle sconosciute, alle donne della nostra famiglia, alle nostre madri, no? Che spesso noi donne abbiamo anche dei rapporti incasinati d'amore, però anche di, no, lontananza, di rabbia eccetera con le madri. Provare veramente a trasformare tutto questo, ma non in un modo finto applicandoci la mascherina sorridente in faccia, sinceramente, no? Però dare proprio valore a tutto quello che ci capita, che ha a che fare con noi donne. Io penso che la società pian piano riusciamo a trasformarla, si trasforma. Secondo te la letteratura, la narrativa pura, può avere un valore in questo processo di trasformazione, in questa lotta contro la violenza alle donne? Io credo di sì, io credo che veramente la letteratura può cambiare le nostre vite. Quando si dice la letteratura non cambia il mondo, può darsi che non cambi il mondo, ma le nostre vite sì, perché se io penso ai libri che ho letto, io non so, per esempio da ragazza, quando ho scoperto Simone de Beauvoir, per dire, cioè, mi si è spalancato un mondo, no? Ma anche scrittrici che apparentemente non le pensi subito legate al femminismo, per esempio, che ne so, Natalia Ginzburg, Elsa Morante, che addirittura Elsa Morante spesso diceva: no, io non mi riconosco come scrittrice donna, io sono uno scrittore, punto. Però io sentivo che quel libro lì era scritto comunque da una donna, e quando quella donna raccontava, per esempio, che ne so, penso sia Elsa Morante che Natalia Ginzburg, i rapporti familiari, i rapporti con i mariti, con le madri, era uno sguardo di donna comunque, c'era una visione del mondo partendo da un sentire che secondo me era di donna, e questo mi dava una grande forza proprio, no? Di riuscire anche a nominare certe cose, certi sentimenti, certe cose, no? Che ti si smuovono dentro. E io penso che abbia un ruolo fondamentale la letteratura, sì. Grazie a Rossana Campo, ora in libreria con Il posto delle donne, pubblicato da Ponte alle Grazie. Vi ricordo che trovate queste e le altre puntate del Cacciatore di Libri su www.radio24.it. Un saluto da Alessandra Tedesco.